Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, iniziamo bene questa settimana. Abbiamo in regia oggi Giorgio Mattè e Laura Vanossi come sempre in redazione. Sentiamo il sommario di oggi. Una bocca a prova di bacio. Un test semplice per individuare le cause di un problema difficile come il mal di schiena. Dalla Betulla, un aiuto per chi soffre di cellulite. Sì, oggi, come anticipato nel sommario, vogliamo regalarci una bocca a prova di bacio, o se preferite a prova di incontri ravvicinati. Molto spesso tra due persone che si parlano, stanno vicine, spunta un terzo incomodo, invisibile ma fastidioso, respingente, imbarazzante, l'alito cattivo. Ci sono persone che convivono con questo problema senza saperlo, ahimè, altre che ne sono talmente consapevoli che vivono succhiando caramelle, masticando chewing gum, sciacquando la bocca con colluttori. Forse, anzi, anche in questo caso la verità, o meglio il comportamento corretto, sta nel mezzo. Quindi oggi cercheremo di capire quali sono i nemici del nostro alito per attrezzarci e quindi non correre il rischio di essere tenuti a distanza di sicurezza dalle persone che vivono accanto a noi. Se volete parlarne insieme a noi, 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Intanto proviamo a vedere se siamo potenzialmente a rischio di alito, non dico cattivo, ma non a prova di bacio. Ti lavi i denti con cura subito dopo i pasti usando spazzolino, filo interdentale e dentifricio? Le tue gengive sono delicate? Sensibili? Sanguinano facilmente? Respiri bene o hai spesso il naso chiuso? Dormi con la bocca aperta e ti esibisci in concertini notturni? Hai mal di gola e tonsilliti ricorrenti? Resti spesso a bocca asciutta o senti uno sgradevole sapore? Bene, intanto che provate a rispondere, vi presento gli ospiti di oggi. È tornato a trovarci il professor Abati. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Associato di malattie odontostomatologiche all'Università di Milano, responsabile dell'unità di Day Hospital e diagnosi orale della clinica odontoiatrica dell'ospedale San Paolo di Milano e vicepresidente della Società Italiana per la Ricerca sull'alitosi. Quindi c'è una società che si occupa di questo problema. Sì, dai numeri, devo dire... Beh, che è una società importante. E qua in studio con noi abbiamo anche il dottor Alberto Scotti, otorino della Clinica Universitaria San Paolo di Milano. Dottor Scotti, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Professore, noi non abbiamo inserito nella nostra scheda di autovalutazione domande sul consumo di aglio, cipolle, porro, che sappiamo essere molto efficaci nel crearci il vuoto attorno per parecchie ore. Né abbiamo chiesto se i nostri amici da casa fumano, se sono fumatori passivi, ma forse lei qualche domanda in più da fare, oppure magari un test pratico da suggerirci, sicuramente ce l'ha. Certo, naturalmente uno delle principali cause dell'alito sgradevole è l'alimentazione con cibi alitogeni. Tutte sì. Le aliacee, più alcune spezie orientali come il curry, quando vengono digerite poi rilasciano nel sangue una serie di sostanze che poi vengono emesse dall'aria polmonare e danno, come per esempio l'aglio e la cipolla, in grande quantità fino a 72 ore dopo sono riconoscibili. Quindi se è necessario avere una buona performance, è indispensabile evitare un grande consumo di alcuni cibi. Dopodiché, a proposito di come si fa a sapere se si ha l'alito cattivo, la classica e cosiddetta mano a conchetta davanti alla bocca che espira non serve a nulla, serve per sentire l'odore della pelle e delle sostanze sulla pelle che ci sono. Invece c'era un test molti anni fa proposto da un caro collega che saluto, il professor Guastamacchia di Milano, che era fare un gargarismo e uno sciacquo con un dito di acqua tiepida, rieliminare l'acqua e mantenerla nel bicchiere e annusarla dopo una decina di secondi. Questo realizza un piccolo sistema in vitro in cui i microbi che provocano l'alito cattivo e che sono in bocca e le sostanze ci danno una certa misura di quello che è il nostro alito. Oppure la classica prova il leak test, che consiste che ci si lecca il polso pulito con la lingua, si aspetta un attimino e l'odore che si sente poi si annusa. Si avvicina a quello del nostro alito. Dottor Scotti, la sua presenza qui dimostra che anche il naso e la gola ci mettono lo zampino. Infatti proprio tra le domande della nostra scheda abbiamo inserito delle domande ad hoc. Dormi, respiri con il bene oppure con il naso chiuso, dormi a bocca aperta, russi, hai delle tonsilliti frequenti. Segno che insomma non dipende solamente dalla bocca, l'alito cattivo, ma anche dal naso e dalla gola e da alcune condizioni, infiammazioni, malattie che interessano proprio queste due zone. Sì, sicuramente il 10% dei pazienti che soffrono di alitosi hanno un problema di naso o di gola, diciamo in generale che tutte le condizioni, le malattie del naso che creano un'ostruzione respiratoria nasale portano il paziente a respirare a bocca aperta, quindi creano un'alterazione del normale equilibrio batterico della bocca, come poi spiegherà più precisamente il professor Abbati, e quindi creano le condizioni predisponenti ad una alitosi. Non dimentichiamo che anche le situazioni infiammatorie, le rinosinusiti, le faringotonsilliti, grazie ai processi di infiammazione, la creazione di batteri e l'alterazione sempre dell'equilibrio del naso, del cavo orale, possono costituire un potenziale di alitosi. Non dobbiamo dimenticare infine le patologie delle ghiandole salivari, che sono sempre di pertinenza dello specialista otorinolaringoiatra, in quanto le malattie delle principali ghiandole salivari, alterando la produzione nella qualità della saliva e nella quantità soprattutto, nel senso di diminuita produzione, certo, di saliva, determinano sicuramente un problema di alitosi. E diciamo che di alitosi possono soffrire anche i bambini, anche piccoli. 800 24 0024 se volete restare con noi e intervenire, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo temporaneamente pagina, parliamo di mal di schiena, lo sappiamo, può presentarsi come un fulmine a ciel sereno, il classico colpo della strega, e risolversi per fortuna in qualche giorno, ma può anche purtroppo affezionarsi a noi e quindi cronicizzarsi. E qui la situazione rischia di diventare difficile per il paziente, soprattutto che deve fare i conti con un dolore invalidante che lo blocca, lo limita nei movimenti e nelle attività quotidiane, ma anche per il medico che deve scoprire la natura del mal di schiena e quindi capire anche se in qualche misura possono essere interessati i nervi. Pensiamo ad esempio alla sciatica, ma c'è un test a bassa tecnologia che può aiutare il medico a vederci chiaro e il paziente a essere curato meglio. Ne parliamo col professor Giorgio Crucu, ordinario di Neurologia della Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni sul dolore neuropatico. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Professore, adesso io la faccio semplice, ma dovete farla, me lo dica lei, però in fase acuta è facile distinguere due tipi di dolore, quindi risalire alle cause, perché se sappiamo, se il mal di schiena scende anche lungo le gambe, non occorre essere un medico per pensare che in qualche modo possa essere sciatica. Quando invece il mal di testa diventa cronico, la situazione si complica. Sì, ha detto correttamente. Quando si avverte, oltre alla consueta lombalgine, un dolore proiettato verso la gamba o il piede, sicuramente c'è il coinvolgimento di una radice spinale. E invece in fase cronica non è così facile, così evidente. Praticamente si mescolano due condizioni, sì, a formare una ulteriore condizione che noi chiamiamo dolore misto, perché ha una componente locale infiammatoria che origina dai tessuti lombari, ossa, muscoli, articolazioni, più interessa la radice spinale. Quest'ultimo è un dolore di tipo neuropatico che comporta un trattamento di tipo totalmente diverso. Certo, per cui per prendere le terapie corrette bisogna che il medico faccia una diagnosi giusta. Sì, sarebbe più che mai opportuno. Vero, che dice? E la novità sarebbe appunto che può non dover ricorrere, aspettare per risonanze magnetiche e elettromiografie, ma può subito farsi un'idea abbastanza precisa. Parliamo allora di questa sorta di test a bassa tecnologia che con alcune semplici domande e alcune semplici manovre permette al medico di vederci chiaro e quindi al paziente di essere curato meglio. Di che cosa si tratta, professore? Questo test è elaborato da questi studiosi americani e validato negli Stati Uniti, consiste di 11 item, 11 argomenti, sì. 3 sono domande, 7 sono manovre e uno, l'ultimo, si tratta di vedere se ci sono alterazioni sulla cute. Quindi quest'ultima cosa la può vedere sia il paziente che il medico. Le prime sono all'inizio domande a cui deve rispondere il paziente, per esempio se avverte disestesie, che è il termine che noi usiamo in neurologia per indicare delle sensazioni spontanee con un contenuto comunque fastidioso, che potrebbero essere punture di spilli, sì. Formicoli molto intensi, eccetera. Oppure, ecco, un'altra domanda importante, se il dolore, oltre a avere, perché il mal di schiena di solito non ha una qualità sensoriale specifica, un senso di tiramento, di peso, il paziente fa fatica a descriverlo, se invece il dolore ha una qualità bruciante o fredda. Cosa vuol dire fredda? Fredda, cioè un dolore algido, una sensazione di freddo doloroso, sì. Come le sarà capitato qualche certo. volta in montagna. No, no. Cioè, ahimè sì. Quindi basta. E poi ci sono anche delle manovre molto semplici che può fare il medico in studio, in ambulatorio. Sì, sì, una serie di manovre sempre volte a valutare riduzioni o aumenti eccessivi della sensibilità al freddo, della sensibilità dolorifica alla puntura di spillo, eccetera, eccetera. E poi c'è una classica manovra che tutti i medici conoscono, la manovra di Lasaeg, che si fa estendendo la gamba, sì. mantenendo la gamba, il paziente sta sdraiato, si mette una mano sul ginocchio che spinge in basso, una mano sotto la caviglia che spinge in alto, si solleva quindi la gamba estesa, sì. e si misura l'angolo al quale il paziente blocca la gamba perché sente dolore. E questa è una manovra semplicissima e fornisce un sacco di informazioni. Io penso che questo esame così semplice potrà essere veramente molto utile sotto due punti di vista del tutto diversi ma altrettanto importanti. Innanzitutto, gli autori lo dicono apertamente, sarebbe importante che l'industria farmaceutica, quando organizza i trial clinici per testare i propri farmaci in sviluppo, sì. Nel caso appunto del mal di schiena, tenesse conto di queste due possibilità, perché difficilmente un farmaco solo può riuscire a coprire tutti i due aspetti, per cui dovrebbe selezionare la popolazione in base ai risultati di questo test e dovrebbe poi misurare l'effetto separatamente sulla componente neuropatica e quella locale infiammatoria. E l'altra cosa ancora più importante è che, sa, in questo periodo ci stiamo battendo molto sul dolore, cercando di sensibilizzare anche i medici di medicina generale, nel senso che è vero che di dolore spesso non si muore, però il numero di persone che soffrono di dolore cronico è talmente elevato ed è talmente importante che l'intervento sia precoce, sì. che noi speriamo che il medico di famiglia, che certamente sa fare tutte queste manovre, le utilizzi. Si sensibilizza al problema, le utilizzi e quindi possa fin dall'inizio avere uno strumento in mano per capire che indagini poi ulteriori può chiedere e partire con la terapia giusta. Professore, speriamo allora. Una buona notizia per chi soffre di mal di schiena, un invito ai medici. Professore, ci sentiamo presto, la ringrazio per essere intervenuto, buona giornata. Grazie Nicoletta, saluti a tutti. Pronto soccorso. Oggi parliamo di un disturbo invisibile ma che si fa sentire, l'alitosi o alito cattivo. Abbiamo un odontostomatologo, un otorino sono a nostra disposizione, sono infatti nella maggior parte dei dei casi gli specialisti di riferimento di questo problema, dato che la ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che le cause del problema sono da ricercarsi prevalentemente nella bocca, nel naso e nella gola. Insomma, questo è quello che ci dicono gli studi, ma da sempre la litosi è considerata, almeno da noi non addetti ai lavori, come un problema di digestione o ancora di più di fegato. Quindi ho pensato fosse utile il parere di un gastroenterologo e allora ho telefonato subito al dottor Stefano Fagioli, che direttore di gastroenterologia agli ospedali riuniti di Bergamo, che è già in linea con noi. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In effetti è vero, molti ritengono che l'alito cattivo possa dipendere da patologie dell'apparato digerente e del fegato e che per questo siano sostanzialmente difficili da gestire. E la cosa che è importante da sapere subito è che possiamo valutarlo attorno all'1%, sì, la quota di individui con alitosi che di fatto hanno problemi a livello del sistema digerente o del fegato, quindi veramente pochissimi. E ancora di più quando il problema è legato a fegato o a tratto digerente, va detto che in genere non è certo l'alitosi il primo sintomo che avvertono, proprio perché quando in quelle condizioni dell'apparato digerente o del fegato alterate si presenta anche l'alitosi, la malattia è veramente in stato avanzato. Ci sono delle cause gastriche e in genere sono piuttosto rare, sono sostanzialmente legate a un cattivo funzionamento del cardias, cioè quella valvola che in teoria separa, anche in pratica, lo stomaco dall'esofago, impedendo il reflusso. Ecco che con reflusso o con la presenza di voluminose ernie iatali ci può essere il problema. E altre malattie che invece possono causare alitosi sono il diabete, l'insufficienza renale cronica o la cirrosi. Ma non dobbiamo pensare che tutte le condizioni di diabete, insufficienza renale o cirrosi possano dare il problema, certo, ma solo quelle malattie così gravi da essere in uno stato di scompenso di difficile controllo medico. E quindi questa è la condizione ed è per questo che è piuttosto rara. Approfitto della presenza del dottor Fagioli per dare la linea ad Antonella da Roma per vedere se il suo è un problema che necessita un intervento dell'otorino invece dell'intervento del professor Abati e quindi è un intervento legato a tutta l'igiene della bocca e alla salute della bocca, oppure al dottor Fagioli. Antonella, buongiorno, le metto a disposizione tre cavalieri. Buongiorno. Felice, grazie. Senta, io volevo sapere, siccome mio marito soffre ogni tanto di alitosi, ma che si avverte anche un po' da lontano, e siccome lui soffre di esofagite da reflusso, sì, e forse in parte il professore mi ha detto che potrebbe anche, sì, è più da indagare in quel campo oppure magari a livello di bocca, di denti, di... Allora, io penso che sia da indagare un po' senza andare sempre dal medico, però che il problema sia un po' di competenza di ciascuno degli specialisti che abbiamo oggi a disposizione. Dottor Fagioli, una risposta per Antonella e poi passiamo al consiglio del professor Abati e del dottor Scotti. Certamente una buona quota di pazienti che soffrono di reflusso presentano dei sintomi che noi definiamo atipici. Sì. Il sintomo tipico è quello del bruciore retrosternale, quasi come un fuoco dietro la bocca dello stomaco. Però il fatto che ci sia reflusso senz'altro può causare dei sintomi atipici quali lingua patinata, parodontiti, gengiviti, stomatiti, anche faringiti, che possono in realtà a volte essere l'unica manifestazione della patologia. È più facile attribuire al reflusso un problema di alitosi quando è presente la sintomatologia tipica, perché si possono associare le due cose. In un caso del genere, dove c'è già una diagnosi di questo tipo, credo che la consulenza dello stomatologo o del dentista per capire quali problemi sta causando nel cavo orale un eventuale reflusso, oltre sia l'approccio corretto, sia la cosa più corretta. Allora, certo, quindi il dottor Fagioli passa la palla al professor Abati, che prima dei mercati, fa anche rima, dà un'indicazione ad Antonella. Sostanzialmente concordo con il collega Fagioli, e anche questo è uno dei casi, quello proposto da Antonella, in cui l'approccio alla diagnosi deve essere razionale. Siccome in oltre l'80% dei casi il problema è orale, è necessario indagare prima il cavo orale e risolvere problemi di batterici nel cavo orale, cioè di gengivite, parodontite, quindi, accumulo di placca. Occhio, occhio all'igiene, ma soprattutto all'igiene, alle gengive, alla lingua, alla saliva. Di questo parleremo. Intanto, dottor Fagioli, io la ringrazio per essere stato con noi, perché soprattutto ci ha tranquillizzato. Insomma, buongiorno, non dipende dal fegato. Grazie, dottore, buona giornata, buon lavoro. Bella gatta. Bella nuca. Oh! Nucleo, cosa hai mangiato? Una motosega? Perché? Hai l'alito che disbosca. Ma bella capsula. Ma bella nucleo. Ah! Nucleo, cosa hai mangiato? L'acqua raggia? Perché? Hai l'alito che diluisce. Ma bella capsula. Ma bella nucleo. Ah! Nucleo, cosa hai mangiato? Valentino Rossi? Perché? C'hai l'alito che impenna. Riprendiamo a parlare del tema del giorno e per riprendere il passo abbiamo riascoltato I pali e dispari da Zelig. Oggi parliamo di alito cattivo, un problema molto diffuso. Ne parlavamo proprio con il professor Abbatti, basta chi frequenta i mezzi pubblici, quindi metropolitana, autobus, certo, lo sa bene. Eh sì, salire in metropolitana alle 7 del mattino e trovarsi ad altezza, con il naso all'altezza della bocca di qualcun altro, può essere imbarazzante. Eppure ci sono dei momenti in cui il nostro alito è fisiologicamente più cattivo, al mattino appena svegli. Molti, certo, ascoltatori ci stanno scrivendo questo, tra cui un ascoltatore, Piero D'Ancona, che ci dice: sempre la bocca amara al mattino al risveglio. Sono singolo e non so dare altre informazioni sulla qualità del mio alito, ma immagino che ci sia un legame tra le due cose, di essere a rischio. Allora, innanzitutto bisogna distinguere sapore cattivo, bocca amara è una cosa, e alito cattivo, che è l'odore dell'aria che esce dalla bocca, è un'altra. Non necessariamente sono associati. Sì. Il sapore cattivo in bocca, in particolare al mattino, è più frequentemente un segno di problemi gengivali, di gengivite o di parodontite, che si affrontano come si affrontano i problemi gengivali, cioè con un'adeguata igiene orale. I momenti in cui l'alito è peggiore fisiologicamente, si chiama alitosi parafisiologica, sono dopo periodi di digiuno prolungato, perché l'ambiente biochimico della bocca si sposta verso l'alcalinità, prevalgono i microbi, il metabolismo dei microbi gram negativi e anaerobi, che demolendo i residui di proteine producono sostanze solforate, microbi che vivono sia in prossimità delle gengive sia sul dorso della lingua. Quindi, se si vuole prevenire l'alito cattivo del risveglio mattutino e del digiuno e del periodo di digiuno, è necessario praticare un'accuratissima igiene orale prima di andare a letto alla sera e dopo aver pranzato, dopo aver mangiato, certo, l'ultimo pasto. Silvana ci chiama dalla provincia di Como, 824 0024. Buongiorno Silvana, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Volevo chiedere, io ho una bambina di 11 anni, però sì, è già da qualche anno che lei soffre di un alito molto cattivo, per cui io già la faccio girare con le caramelle in tasca. Volevo sapere quali possono essere le motivazioni per una bambina così piccola avere problemi di alitosi e che cosa si può fare, se è caso di portarla da uno specialista, se ci sono invece attenzioni che si possono avere comunque. Lei ha un'igiene orale molto curata, anche perché va dal dentista, apparecchi, cose del genere, quindi è molto seguita come igiene orale. Sì. Questo è tutto, grazie. Grazie a lei Silvana. Allora, sull'igiene orale Silvana dice che la bambina ha la pratica ed è molto attenta, per cui sicuramente professor Abbatti non è il caso suo. Esatto. Lei è tranquillo, ma volevo chiedere una cosa. Silvana dice le do caramelline da succhiare eccetera, è una buona cosa? Dipende, non sempre. Se sono zuccherate, no, non va bene. Ecco, questo volevo sentirmi e dire comunque da lei. Non risolvono il problema alla base, che può essere invece di pertinenza del dottor Scotti, cioè interessare il naso e la gola. Le abbiamo detto, tonsilliti, il naso che è chiuso, certo, tutto quello che altera un po' questo equilibrio perfetto può in qualche modo peggiorare l'alito, anche dei bambini. Sì, esattamente. Se non ci sono problemi di igiene orale, Vi possono essere delle situazioni di tipo infiammatorio a carico soprattutto delle tonsille e delle adenoidi, che spesso non vengono nominate dalle mamme che si preoccupano di tonsilla, ma quando vi è un'ipertrofia tonsillare, cioè un aumento di volume delle tonsille, consensualmente vi è quasi sempre un aumento di volume delle adenoidi. Le adenoidi, ricordo che sono un tessuto linfatico che sta nella parte posteriore del naso, quindi quando sono molto voluminose obbligano i piccoli pazienti a respirare con la bocca aperta. Questo è una cosa di cui ci si può facilmente accorgere, perché di notte tipicamente russano, quindi sì, sarebbe interessante sapere se la figlia della nostra ascoltatrice ha questo tipo di problemi. Come si può capire, dottor Scotti, se la bambina di Silvana e tanti dei nostri figli dei nostri ascoltatori, che bene o male rispecchiano un po' questa situazione, possono avere un problema di adenoidi o di tonsilli? Di tonsille ingrossate. Sì, per quanto riguarda le tonsille basta porre delle domande opportune, cioè la frequenza, la quantità, la qualità delle eventuali tonsilliti. E per quanto riguarda le adenoidi, oggi esiste un esame molto semplice, assolutamente indolore per i bambini, che è la fibroscopia. Con una fibra ottica si guarda letteralmente all'interno del naso e si vede chiaramente se l'adenoide è ipertrofica o è normale. Prima di andare a Lucca, nella provincia di Lucca, che ci aspetta Giovanni, al professor Abati volevo chiedere due cose, due sms che ci arrivano. Uno, metodo della nonna: la sera dopo aver lavato i denti, fare un risciacquo con mezzo bicchiere di acqua tiepida salata, e il nostro ascoltatore dice molto efficace. L'altro ascoltatore ci chiede se è corretto fare è utile sciacquare i denti con la mucchina diluita. Allora, il metodo della nonna sicuramente può essere efficace, ma rischia di disidratare per il sale, la bocca. Esistono dei, e secondo metodo proposto, la mucchina diluita, no. In entrambi i casi esistono dei collutori che contengono valide sostanze antisettiche, anche di uso quotidiano, che sono molto meglio. Di cui parleremo nel corso della nostra trasmissione. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie Giovanni, ci racconti. Ho un problema di alitosi. Per quanto riguarda la bocca dal punto di vista dentistico, faccio una cura, una profilassi periodica, quindi è perfetta, mi dice il mio dentista. Sì. L'unica cosa che ho, il colesterolo un po' alto, quello costantemente, sì, e poi russo parecchio la notte. Ah, russa, se lo dice anche lei, perché di solito il russatore non ammette mai, invece no, Giovanni schietto. A volte mi sveglio da tanto che russo. Giovanni, è troppo simpatico, è vero, però capita, professor Abati, magari sarà capitato anche a lei, ma non glielo chiedo, sì, no, di svegliarsi capitato dal suo russo, no, non ancora, non vuole sbilanciarsi, invece si sbilanci, c'è una relazione tra colesterolo e... diretta non c'è, no. Essere magari, dipende dalle terapie, esistono alcuni farmaci usati in pazienti anche che hanno tra i vari segni il colesterolo alto, che possono provocare con meccanismo indiretto, per esempio diminuendo la secrezione salivare, come molti antipertensivi. Infatti il dottor Scotti ci ha detto, anche per la bambina, dormire con la bocca aperta, Giovanni, russa, certo, può in qualche modo alterare, sì, questo equilibrio. Sì, perché se la saliva diminuisce molto, siamo finiti, perché aumentano i microbi, manca l'autodetersione data dalla saliva. Allora, Giovanni deve stare attento al suo problema, perché il russamento notturno, Giovanni, ne abbiamo fatto delle puntate, può essere un problema di salute, dottor Scotti. Sì, certo, il russamento può essere, più che l'alito direi. Esatto, il russamento è sicuramente un problema più importante dell'alito, perché può essere il sintomo di un problema molto più importante, che è la sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno. Quindi il signor Giovanni va sicuramente indagato per valutare la sua funzionalità nasale e per individuare i punti di ostruzione, soprattutto a livello del velo palatale dell'ugola, che possono determinare questo russamento. Eccoci qui, abbiamo Barbara che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamata. Intanto complimenti a lei perché è simpaticissima, l'ascolto da anni. Grazie Barbara. Ecco, niente, io sono una mamma apprensiva, anche se ho un ragazzo di 24 anni che ormai dovrei lasciarlo perdere. Ce lo diciamo tutti, però poi non ce la facciamo. E niente, lui alla mattina quando si sveglia ha l'alito pesante. Diciamo che igiene orale, penso la faccia in maniera corretta, i denti li assani e un pochino secondo me russa, sì, ecco, ha avuto No, da piccolo ha avuto la mononucleosi, io a volte faccio riferimento a questo, e ha sofferto di acetone, perché anche nella stanza, quando io lo vado a chiamare, c'è questo odore che ha proprio, secondo me mi ricorda l'acetone di quando era piccolo. Si ricorda, Barbara, però noi mamme non controlliamo i nostri figli quando alla sera escono, per fortuna non ci siamo, appunto, no? Escono con gli amici, le morose, eccetera, magari bevono qualcosa, mio figlio, diciamo che lui non beve, allora, non è uno che beve, al massimo beve una birra, non è un ragazzo. Non pensavo a grandi livelli, magari, professor Abbati, secondo lei Barbara si deve preoccupare? Che cosa può fare per aiutare questo figlio grande? Innanzitutto promuovere, perché dire sicuramente l'igiene orale, la pratica, la pratichiamo tutti, però l'igiene orale efficace è quella che ci deve permettere di stare con la minor quantità possibile di placca, quindi praticata con le tecniche corrette, associando l'igiene del dorso della lingua, perché allontanare delicatamente i microbi dal dorso della lingua è la misura più efficace tra quelle igieniche per combattere l'alitosi, visto che i microbi che la provocano sono lì. E poi l'amico Alberto Scotti, sicuramente, se il dottor Scotti russa. Sì, il russamento, come dicevamo prima, è indice di ostruzione nasale, di respirazione orale, ma non vorrei che il messaggio fosse che tutti i russatori hanno l'alito cattivo. Esatto. Assolutamente, quindi, no, quindi l'attenzione, già certo, l'attenzione si sposti dalla bocca, che è la cosa più importante. Allora, e per spostare appunto l'attenzione sulla bocca, per sottolineare quanto un'accurata igiene orale, noi la pratichiamo, tutti la praticano, ma non sempre in modo adeguato, efficace, abbiamo in linea con noi il professor Guglielmo Campus. Buongiorno professore. Buongiorno. Ciao Guglielmo. Ciao Silvio. Ricercatore alla clinica odontoiatrica all'Università di Sassari, che per me ha tantissime S, professor Campus. una bocca curata e una bocca profumata, però ci guidi lei, dato che questo problema esiste, nonostante spazzolino, dentifricio, filo interdentale, colluttorio, l'alito spesso non è fresco, che cosa sbagliamo, dove dobbiamo insistere? Professore, a lei. Allora, intanto ricordo solo che le istruzioni che ha dato poco fa il professor Abbati sono correttissime, cioè proprio di spazzolare anche il dorso della lingua, perché proprio lì vivono i batteri che sono responsabili dell'alito cattivo. E poi utilizzare sicuramente dei colluttori. Esistono oramai in commercio dei colluttori a base di clorexidina, a basse concentrazioni, e anche altri antiagenti batterici, tipo lo zinco citrato, eccetera, che sono capaci di ridurre l'alitosi, cioè l'alito cattivo. La cosa però naturalmente più importante è che queste manovre di generale andrebbero fatte sempre. Sempre, quindi? Almeno due volte al giorno, ecco. Dopo noi utilizziamo i pasti principali, cioè la mattina e la sera, chiaramente anche tre, cioè dopo pranzo, spesso e volentieri dopo pranzo, col fatto della vita odierna non si riesce a mangiare a casa e magari non si ha il tempo necessario per poter effettuare una manovra di generale corretta, però almeno la mattina e la sera è indispensabile. Professor Campus, colluttori anche ai bambini o no? Colluttori anche ai bambini a base di clorexidina e di zinco citrato? No. Ecco, questo. Mentre no. Per i bambini, per disinfettare un pochino la bocca, il fluoro? Per disinfettare un pochino la bocca va bene anche un colluttorio al fluoro, sì, che naturalmente agisce più sulla carie, ma in ogni caso ha un suo effetto anche batteriostatico. Professore, faremo come lei ci ha insegnato, continueremo a comportarci bene per delle esatto. bocche a prova e di incontri ravvicinati. Grazie professor Campus. Grazie a voi. Vogliamo a Vicenza, che ci chiama Lorella. Buongiorno Lorella. Buongiorno. Rapidissima, perché poi ho un appuntamento che interessa anche noi donne sulla cellulite. Allora, mia figlia ha 19 anni, sì, è da diversi anni che soffre proprio di alito marcio. Marcio, ciò significa che il suo alito non viene proprio dalla bocca, perché i denti sono a posto, proprio dal fiato. Ecco, questo al mattino. Senta Lorella, forse qui il dottor Scotti potrebbe ricordare, l'abbiamo fatto un po' nel corso della trasmissione, che un saltino dall'otorino per vedere un po' com'è la condizione del naso potrebbe essere utile a Lorella, possibile che la ragazza soffra di rinite o di rinosinusiti ricorrenti o abbia un problema di tipo allergico con conseguente ostruzione respiratoria nasale. o addirittura abbia un problema di tonsille, quindi va indagata in questo senso. Dottor Scotti, prima di salutarvi, io volevo chiedere, i lavaggi nasali per chi soffre di questi problemi possono in qualche modo, tenendo pulite le cavità nasali, evitare l'alito cattivo? Se c'è un problema nasale non solo servono ma sono fondamentali. E le cicche da masticare, professor Abati, le, sì, le se usiamo, sono senza zucchero, no? Vanno molto bene, aumentano la secrezione salivare e qualche volta contengono sostanze che sono contro i batteri che provocano l'alito cattivo. Quindi amiche dell'alito fresco, ringrazio il dottor Scotti e il professor Abati. Se volete scriverci esserebenessere@radio24.it, loro sono sempre a disposizione. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Bene, adesso in chiusura parliamo di cellulite, un problema che noi donne conosciamo bene e che ogni anno con l'arrivo della bella stagione decidiamo di risolvere. In linea con noi ci aiuta con qualche consiglio il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Dottor Temporin, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Dottore, lo sappiamo che non c'è nulla di miracoloso che dall'oggi al domani garantisca risultati definitivi, ahimè. Per affrontare la cellulite sappiamo che ci vuole costanza, determinazione, attività fisica regolare, dieta varia ed equilibrata. Detto questo, dottor Temporin, aiutati che il ciel t'aiuta, un consiglio, un aiuto che arriva dalla natura c'è. Vogliamo parlarne? Prima di tutto sono assolutamente d'accordo con lei. Qui ci vuole proprio un approccio multidisciplinare alla cellulite, in quanto ci sono dei problemi che vanno risolti con l'alimentazione, con un corretto stile di vita, con un'abolizione del fumo o altre sostanze che possono peggiorare questo inestetismo che molte volte è anche doloroso. Dalla natura abbiamo degli aiuti che possono essere ovviamente fatti durante la giornata per queste nostre amiche, che possono utilizzarlo tranquillamente, come alcuni estratti vegetali, quali per esempio la betulla. Dottor Temporin, che cos'ha di prezioso la betulla? C'è da dire che la betulla verrucosa e soprattutto la sua linfa, la quale viene estratta in primavera praticando dei fori nei tronchi delle radici, ha delle grosse proprietà drenanti, depurative e favoriscono fortemente la diuresi. Quindi permettono l'eliminazione anche di quelle scorie che poi vanno semmai a depositarsi nei tessuti delle cellulitiche. Può essere pura, quindi la vera e propria linfa, che è un succo limpido che viene assunto preferibilmente un mezzo bicchiere al mattino a digiuno, oppure noi la possiamo trovare in soluzione idrogliceroalcolica, quindi diluita in proporzione 1:10, e in questo caso può essere messa alcune gocce all'interno dell'acqua e può essere assunta durante la giornata. Anzi Nicoletta, si può fare un vero e proprio cocktail per drenare e per aiutare queste nostre carissime amiche che soffrono di cellulite. Dottor Temporin, io l'aspetto ancora domani, se lei vuole tornare. Certamente Nicoletta, non mancherò. Perché la primavera è una stagione particolare in cui dobbiamo riprendere un po' il passo e lei sicuramente ci aiuterà con i suoi consigli. Dottore, allora appuntamento a domani. Grazie per essere intervenuto oggi. Arrivederci Nicoletta, a domani. E intanto aspetto anche voi domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.